Terminate queste cose, i capi s'accostarono a me, dicendo: Il popolo d'Israele, i sacerdoti e i leviti, nazioni delle popolazioni locali, cananei, ittiti, periziti, gebusei, ammoniti, egiziani e amorrei, hanno infatti preso le figlie di costoro per sé e per i propri figli, e la stirpe santa si è contaminata con le popolazioni locali. E a metter mano a tale profanazione, i capi e i magistrati sono stati i primi. Quando udii questa cosa, mi stracciai la veste e il mantello, mi strappai i capelli del capo e i peli della barba, e mi sedetti, costernato. Allora, tutti coloro che tremavano alle parole del Dio d'Israele si radunarono presso di me, a motivo della profanazione compiuta dagli esuli. Io rimasi là, costernato, fino all'oblazione della sera. All'oblazione della sera mi alzai dalla mia umiliazione, con veste e mantello a brandelli, e caddi in ginocchio. Stesi le mani verso il Signore, Dio mio, e dissi: «Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno di alzare verso di te la mia faccia, o mio Dio, giacché i nostri delitti si sono moltiplicati fin sopra la nostra testa e la nostra colpa è grande fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri sino ad oggi noi siamo profondamente colpevoli. Per le nostre iniquità noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani dei re delle nazioni, alla spada, alla deportazione, alla rapina, all'obbrobrio, come è tuttora. Ma adesso il Signore nostro Dio ci ha fatto grazia per breve istante, lasciandoci un resto e accordandoci un asilo nel suo santo luogo. Così il nostro Dio ha illuminato i nostri occhi e ci ha dato qualche ristoro nella nostra schiavitù, giacché schiavi noi siamo. Ma nella nostra schiavitù il nostro Dio non ci ha abbandonati. Ci ha conciliato il favore dei re di Persia, dandoci animo affinché potessimo edificare la casa del nostro Dio, restaurandone le rovine, e darci una muraglia in Giuda e in Gerusalemme. Ma ora, che cosa potremo dire dopo tutto ciò, o nostro Dio? Abbiamo infatti abbandonato i tuoi comandamenti, che tu avevi ordinato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: il paese in cui entrate per prenderne possesso è un paese contaminato per le immondezze delle popolazioni locali, per le impurità di cui l'hanno riempito da un capo all'altro con le loro nefandezze. Dunque, non date le vostre figlie ai loro figli, né prendete le loro figlie per i vostri figli. Non cercate mai la loro prosperità né il loro benessere, affinché diventiate voi forti, potendo mangiare i frutti migliori del paese e lasciarli in eredità ai vostri figli per sempre. Ma dopo quanto ci è avvenuto a causa delle nostre azioni malvagie e per la nostra grande colpa, benché, o nostro Dio, tu abbia computato in meno le nostre iniquità e ci abbia lasciato un simile resto, torneremo noi forse a violare i tuoi comandamenti, imparentandoci con questi popoli abominevoli? Non ti adireresti contro di noi fino a distruggerci, sicché non vi sia più né un resto né un superstite? O Signore, Dio d'Israele, tu sei giusto, perciò noi, un resto, sopravviviamo, così come oggi accade. Eccoci davanti a te con le nostre colpe, benché davanti a te noi non potremmo reggere a causa di esse.